Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siete in collegamento con 451 frammenti sonori, la voce è un po' strana stasera, vediamo se c'è il solito piccolo problema tecnico, cercheremo di risolverlo in corso d'opera. Chiaramente intanto un saluto da Elisio Scarpa. 451 frammenti sonori ormai da un po' di tempo si alterna con la conduzione singola tra me e il buon Max Macchia. Prima le assenze prolungate a lungo da parte mia, ora ci stiamo un po' alternando come già preannunciato nelle scorse puntate. E stasera chiaramente affronteremo un tema musicale che è anche connesso alla situazione generale che ci stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane di disastri concatenati. Sicuramente molti ascoltatori stanno seguendo, anche quelli meno interessati alle novità politiche e chiaramente mondiali, siamo nell'occhio del ciclone in questo periodo e chiaramente siamo legati molto ai due episodi più eclatanti, in primo luogo il disastro nel Giappone, che ovviamente tratteremo anche musicalmente con un omaggio in particolar modo ad un autore giapponese, dato il disastro umano e non solo umano ma naturale, proprio ambientale, che sta devastando il Giappone. Chiaramente anche il disastro e la distruzione che sta avvenendo comunque connessa all'entrata in guerra vera e propria delle potenze occidentali, in particolar modo dell'Italia, nella guerra in Libia. Noi non siamo stati mai come trasmissione completamente scevri da un'incidenza, da un'influenza di questi fatti politici che riguardano ovviamente l'intero mondo, che è sempre più martoriato, e stasera affronteremo un tema che è connesso a questa problematica. Il titolo della trasmissione del nostro viaggio sonoro di stasera si chiamerà Astrazioni e Distruzioni ed è chiaramente un gioco di parole per alternare momenti chiaramente connessa all'astrazione artistica ed espressiva, con vari progetti che si muovono su questo piano, e chiaramente alterneremo anche momenti estremamente duri, lancinanti, connessi anche alla nostra idea di rappresentazione musicale della distruzione. E apriamo con una forma di astrazione vera e propria, con un progetto musicale che non è passato molto spesso all'interno di 451 frammenti sonori, ma comunque è una formazione che è importante sulla scena del post-rock, non solo, perché definirla soltanto nell'ambito del post-rock è sicuramente limitativa. Si tratta della formazione dei Piano Magic, formazione nata a metà degli anni 90, ha sviluppato il proprio percorso artistico e musicale negli anni zero con vari dischi. Poco tempo fa, circa un mese fa, abbiamo inserito nella nostra scaletta musicale di 451 frammenti sonori un disco del 2001 dei Piano Magic, in particolare Sodemar. E stasera apriremo questo nostro viaggio tra astrazioni e distruzioni con un disco splendido, anche questo uscito nel 2001, un'antologia diciamo dei lavori più importanti fino al 2001 dei Piano Magic, intitolato Seasonally Effective. Un disco appunto dove le astrazioni musicali ed espressive raggiungono sicuramente degli elementi e delle vette espressive molto importanti, e ritenevamo appunto interessante aprire la trasmissione di stasera con questa astrazione, anche questo estraniamento, questo momento quasi di allontanamento dalla realtà, un sogno e un gioco nello stesso tempo rappresentato dai Piano Magic, che ritroveremo anche nel corso della prima parte, più incentrata verso l'astrazione. La distruzione incomincerà ad apparire, anche se questi due termini rimangono in un terreno dialettico anche nella prima parte, soprattutto nella seconda parte, dove ascolteremo progetti e soprattutto brani che rappresentano in varie forme il concetto di distruzione a cui l'uomo tende tendenzialmente a avvicinarsi moltissimo, soprattutto in questo ultimo secolo di guerre e devastazioni varie, anche quando la guerra non era ufficializzata ma era comunque persistente in varie parti del mondo, ma non colpito diciamo il nostro ambito, il nostro giardino tutto sommato contaminato dell'Occidente. Apriamo dunque con Piano Magic, ricordando comunque sempre, e questo lo faccio subito in apertura, che potete visitare chiaramente il nostro blog per avere informazioni, novità e connessioni legate alle nostre scalette musicali delle trasmissioni passate, presenti e future, ed è sempre 451frammentisonori.noblogs.org. Apriamo dunque la puntata di stasera, Astrazioni e Distruzioni, con Piano Magic da Seasonally Affective, dal CD numero 1. Buon ascolto. Thank you. Chiusura cosmica, splendida questa dei Piano Magic, ricordiamo ancora il disco Seasonally Affective, un lavoro sicuramente di grande spessore, un doppio CD che rappresenta una prima parte di percorso sonoro dei Piano Magic e un vero e proprio viaggio nell'astrazione concettuale e anche musicale ed espressiva elaborata da questa formazione sicuramente molto interessante sulla scena degli anni 90 e gli anni 0. E Piano Magic apre la strada a un altro progetto che si muove su terreni estremamente astratti ma anche giocosi e per certi versi deliranti. Emerge nella giocosità, nei meccano e quasi negli strumenti o nelle costruzioni autocostruite di David Szczesny, il nome è impronunciabile, scusate, ma c'è la S, la Z, la C ed è un nome polacco, autore, giovane autore che è emerso con i primi lavori autoprodotti a metà degli anni zero. E in questo disco che andiamo a presentare ora, Luxated Symmetry, uscito alla fine del 2008, riesce, diciamo, a perfezionare il suo modo di lavorare sul piano musicale, strumenti elettroacustici, ma anche molti oggetti, carry-on, strumenti autocostruiti e anche suoni di pupazzi, un mondo che rappresenta e che si avvicina per molti versi ad autori che già da parecchi anni si muovono su questo versante, ad esempio come il famoso e molte volte inserito all'interno di 451 frammenti sonori Pierre Bastien. È un gioco però inquieto, un gioco oscuro per certi versi, emerge in alcuni brani di questo album un'oscurità, un aspetto sicuramente negativo che sta dentro un gioco malato e distorto di questi strumenti autocostruiti, di questi oggetti e di questi suoni molto giocosi, per certi versi bambineschi, ma anche appunto molto molto malati. E David, non lo voglio dire il cognome perché se no mi blocco, comunque David Szczesny è un autore sicuramente da seguire e apre, diciamo, la parte dedicata ai giochi, alla giocosità e al delirio malato che verrà proseguita anche dal prossimo autore successivo all'autore giovane polacco, che invece è un autore che è passato diverse volte a 451, un autore anarchico che rappresenta il suo odio verso il potere in particolar modo americano, statunitense, ma in generale occidentale. E parleremo poi diffusamente di questo disco, che poi tratta anche il tema della guerra, che purtroppo è ritornato estremamente attuale anche per la nostra bella nazione, al di là delle considerazioni delle grandi autorità italiane che parlano di missione ONU e non di guerra. Beh, insomma, lascia molto perplesso tutto quello che sta girando intorno a questa vicenda libica. Noi diciamo che siamo in guerra, questa è la realtà, che i bombardamenti potranno e forse hanno già provocato molte vittime civili, e quando interviene la NATO e le forze occidentali, anche se ammantate dall'ombrello dell'ONU, c'è sicuramente qualche interesse piuttosto importante sotteso verso questo tipo di operazione. Intanto continuiamo a stare dentro le astrazioni, ma forse c'è anche qualcosa di distruttivo dentro il lavoro di David Szczesny. Sicuramente c'è qualcosa di distruttivo nel prossimo autore, che si collegherà subito all'autore polacco. Intanto godiamoci, se possiamo dire così, le astrazioni dell'autore giovanissimo polacco da Luxated Symmetry. Buon ascolto. Siamo rientrati in diretta, 451 Frammenti Sonori, Radio Città del Capo. Dopo questo splendido viaggio nell'astrazione elaborata dall'autore, giovane autore polacco David Szczesny, il nome che fa ridere la pronuncia, adesso forse riuscirò a finire di non pronunciarlo più, dato che ormai è andato il brano, anzi tre brani connessi emersi da questo splendido Luxedid Symmetry uscito nel 2008, e il percorso dentro le astrazioni continua con un personaggio estremamente provocatorio e divertente per certi versi, anche se molto inquieto nelle sue rappresentazioni musicali. Si tratta di Frank Pahl, musicista di origine canadese e poi spostato negli Stati Uniti d'America, ormai musicista che ha raggiunto l'età dei 60 anni, musicista che già dagli anni 70 ha lavorato molto nell'ambito musicale, in collettivi, in progetti americani che si muovono un po' sulla scia delle provocazioni e delle musiche soprattutto connesse alla progettualità dei Residents, musicista che ha lavorato con Eugene Chadbourne e Pascal Comelad, musicista che ha già elaborato diversi dischi nella sua ormai trentennale carriera, muovendosi in questo territorio simile anche all'autore precedentemente ascoltato, l'autore giovane autore polacco. Dunque un ambito dove il gioco, la rappresentazione quasi molto vicina al sound art e alle sculture sonore, alle performance piuttosto provocatorie e deliranti, i suoi concerti erano accompagnati un po' come il grande Charlemagne Palestine, in un settore completamente diverso, parliamo del minimalismo e nelle sue varie eccezioni. Accompagnare nei suoi concerti, dicevo, da pupazzi, giochi e strumenti autocostruiti, molto connesso chiaramente anche per la sua provenienza culturale e geografica alle musiche country, anche folk americane, ovviamente rielaborate, estremamente deliranti, assurde, come direbbe il buon Max, assurdiste. Frank Pahl, appunto, anarchico dichiarato, politicamente molto impegnato sul terreno della lotta politica, sociale e per certi versi chiaramente anche artistica, elabora un disco, l'ultimo uscito ormai, l'autore che adesso andiamo a presentare, appunto, sono tre anni che non fa uscire un album, l'ultimo album uscito alla fine del 2007, molto connesso al dominio all'epoca di Bush in America, è un disco che dal titolo presagisce parecchio di quello che andrà a rappresentare. Si tratta di Songs of War and Peace, dunque canzoni di guerra e di pace, dove appunto Frank Pahl denuncia comunque in maniera tutta sua, giocosa, sarcastica, grottesca, la guerra ormai permanente degli americani nei territori Iraq, Afghanistan e ora anche in Libia, appunto. E non a caso abbiamo scelto questo disco anche per rappresentare quello che sta accadendo attualmente in Libia, denunciare una guerra vera e propria che colpirà scusate, sicuramente i civili, e al di là di tutte le schermature ONU o non ONU e soprattutto la scusa connessa alla difesa della popolazione ribelle nei confronti di Gheddafi. Ecco, già la bandiera americana devastata con un nuvolo di persone quasi a rappresentare dei fantasmi nella copertina di questo disco rappresenta bene tutto la sua denuncia nei confronti, ovviamente in particolar modo all'epoca di George Bush, ma chiaramente di tutta la politica estera americana e occidentale. E Frank Pahl, appunto, anche oltretutto aiutata in questo disco da Eugene Chadbourne, elabora tutta una storia di sorta di giochi, di melodie, di canzoni, utilizzando banjo, ukulele, harmonious e vari suoni e oggetti autocostruiti. Abbiamo selezionato due tracce per rappresentare anche questa forma di astrazione, che in realtà è un'astrazione per certi versi anche contraddittoria, gioca sull'astrazione ma anche sulla distruzione rappresentata dalla guerra, e dalla guerra in particolar modo americana. Ci andiamo a sentire due tracce splendide del grande Frank Pahl per continuare il nostro viaggio tra astrazioni e distruzioni. Frank Pahl da Songs of War and Peace. Thank you. Dopo il grande Frank Pal, splendidi questi due brani, da Songs of War and Peace, uscito nel 2007, spostiamo completamente il campo d'azione di rappresentazione musicale, spostandoci sul terreno della contemporanea, soprattutto della musica concreta, di un francese musicista delle nuove leve, Jean-Michel Rivet, con un disco splendido uscito nel 2009, ma in realtà le composizioni vanno dal 2005 al 2009 stesso, e Fleur de Que, un lavoro che si muove appunto sul field recordings, sulla musica concreta, su questa traccia di suoni registrati anche lo-fi e dimensione appunto di rumori ambientali, di voci, di dimensioni appunto aperte, ma attraverso questa concreta musica rappresentata e come strumento e come metodologia di lavoro, il suono però è la dimensione complessiva che emerge, diventa per certi versi anche astratta, ma è soprattutto l'aspetto distruttivo, estremamente devastante del suono che emerge nel corso di questi brani elaborati da Jean-Michel Rivet, in particolar modo dell'ultimo brano, quello che chiude il disco, che già il titolo rappresenta molto bene l'intenzione dell'autore, Destructive Mechanic Commando, l'aspetto appunto distruttivo quasi di un comando meccanico che scatta, emerge e distrugge tutto ciò che lo circonda. Non diciamo altro, insomma, è qualcosa di connesso chiaramente a quello che sta accadendo, a quello che è già purtroppo successo, che potrebbe anche succedere, e che chiude, diciamo, la prima parte della trasmissione. Manderemo questo brano estremamente distruttivo che chiuderà la prima parte, per risentirci chiaramente dopo Radio Popolare Network, dopo il GR, e ripartire per la seconda parte di 451 frammenti sonori. Ma prima di mandare in onda il brano di Jean-Michel Rivet, ricordiamo una cosa interessante, già diciamo in parecchio anticipo, e non lo facciamo quasi mai se non per progetti musicali, concerti, festival che trattano le musiche sperimentali di ricerca sonora che noi trattiamo ormai da 10 anni, ma data la conoscenza, l'ottimo rapporto e forse, chissà, manteniamo aperto il discorso, una futura collaborazione o presenza in vari modi che vedremo come elaborare e strutturare. Ricordiamo un importante lavoro sperimentale che sarà a Bologna, Teatri di Vita, in via Emilia Ponente 485 a Bologna, tra il mercoledì 6 e sabato 9 aprile 2011 alle ore 21:15. Ci sarà il grande Antonio Rezza con Flavia Mastrella a presentare l'ultimo spettacolo, l'ultimo lavoro sperimentale, appunto qua a Bologna. Lo ricorderemo anche nelle prossime puntate, lo troverete anche come riferimento nel nostro blog di 451 frammenti sonori. Vi lasciamo ancora aperti a quello che potrà accadere, chissà mai se il grande Antonio Rezza sarà presente o no in una sorta di collegamento, vedremo, insomma lasciamo aperto il discorso. Intanto vi lascio all'ottimo lavoro di Jean-Michel Rivet, distruzione direi proprio totale a chiusura della prima parte. Ci risentiamo dopo il GR di Radio Popolare. A fleur de queue.